in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Abbiamo guardato quotidiani, settimanali e qualche sito per il consueto sguardo, appunto, al di là dei nostri quotidiani, settimanali e siti. Per esempio la Süddeutsche Zeitung, a proposito comunque di confronti tra la nostra realtà e quella di altri paesi, ha ospitato un'interessante intervista ad Andrea Enria, che è un italiano ma è il numero uno della vigilanza europea sulle banche. E una delle cose che ha detto all'intervistatore è che le banche italiane e le consorelle tedesche sono più simili di quanto si pensi. E immagino che il giornalista abbia, non lo si vede dalla carta, ma abbia strabuzzato gli occhi, perché il confronto tra le banche tedesche e le banche italiane è stato frutto in passato anche di scontri politici. E Enria, quando gli è stato chiesto ma in che senso, ha risposto: in entrambi i paesi ci sono risparmio e cooperative, cioè una lunga tradizione di banche di risparmio e cooperative. E il controllo da parte di entità pubbliche locali è stato a lungo un altro tratto comune tra i paesi. È un interessante spunto di riflessione, perché su questo tema, tra l'altro, Enria fu anche duramente criticato quando chiese il commissariamento di Carige, più banca territoriale di così, e per questo dice: non mi offendo se mi criticano, ovviamente, mi rattrista però il fatto che a volte si diano giudizi sulla base delle nazionalità. Mi sento di essere solo un civil servant europeo che lavora per il progetto europeo. E a proposito di confronti o comunque travasi, se vogliamo, osmosi tra paesi, Le Monde ha invece fatto un ritratto di una ricercatrice italiana, Vittoria Colizza, che è una ricercatrice italiana che però lavora in Francia ed è a capo di un'unità del prestigioso INSERM, l'istituto che tra l'altro è, così come lo Spallanzani in Italia, sta facendo molta ricerca per trovare una cura e in prospettiva un vaccino per il coronavirus. E a poco più di 40 anni ha spiegato a Le Monde che è andata in Francia perché in Italia, non c'è bisogno di aggiungere altro, era più difficile, benché avesse tutte le qualifiche necessarie, avendo fatto tutte le università più prestigiose, avesse tutte le qualifiche quindi per avere, se non altro, la chance di lavorare a progetti di ricerca importanti, c'era sempre qualche problema burocratico. Restiamo un attimo in Francia perché Parigi eleggerà a breve il sindaco. Avrete probabilmente sentito che il candidato di Emmanuel Macron, che era Benjamin Griveaux, si è ritirato perché sono stati diffusi dei video cosiddetti hot, e quindi adesso Macron ha sostituito questo candidato con l'ex ministra della salute. E però intanto nei sondaggi è in testa Anne Hidalgo, che forse Anne Hidalgo, che è l'attuale sindaco di Parigi. C'è invece Rachida Dati, che forse lo ricorderete, fu ministro della giustizia nel governo Sarkozy. Quindi tra metà marzo, quando si voterà, se naturalmente da qui a metà marzo non succede qualche cosa, appunto la favorita in questo momento è una candidata del centrodestra, cioè Rachida Dati. E passiamo un attimo a internazionale di questa settimana. La copertina è interessantissima e ha questo titolo: chi controlla l'intelligenza artificiale? Alzi la mano chi non ha sentito parlare appunto di algoritmi, del ruolo dell'intelligenza artificiale, di cui peraltro si parla da molto tempo. Qui però si fa un po' il punto, e ve lo consiglio non perché parla appunto di algoritmi che riguardano tutti, ma sempre da internazionale vi segnalo anche altri due articoli. Uno di scienza, sapete che è un po' la mia passione, questo era apparso su L'Economist e si intitola "I metaboliti che rivelano le nostre abitudini". Quindi nell'urina, nel sudore e nella saliva ci sono sostanze chimiche che forniscono informazioni sul nostro stile di vita e che potrebbero essere usate a nostra insaputa. Ecco, non è un algoritmo quello che individua questi metaboliti, ma poi naturalmente, siccome spesso noi Soprattutto per quanto riguarda gli esami delle urine, non sappiamo esattamente che fine faccia poi o la nostra urina, i nostri contenitori o gli esami che sono stati fatti. L'Economist dice attenzione perché anche la polizia potrebbe essere tentata di oltrepassare i ritmi, i limiti. Quindi è importante rifletterci a fondo perché molti metaboliti sono duri a morire. La cocaina ne è un esempio. Dagli studi è emerso che 2/3 delle banconote da $1 in circolazione negli Stati Uniti contengono tracce di questa sostanza che quindi potrebbero finire sui polpastrelli di innocenti, oltre che dei colpevoli, cioè di persone che la cocaina non l'hanno mai usata, ma hanno maneggiato una banconota che invece è stata usata da chi la cocaina o la vende o la usa, appunto, la consuma. Poi passiamo a un tema, questo è da un settimanale messicano, Simembargo, è un tema che purtroppo è sempre costantemente di attualità anche in Italia. Tra l'altro ci avviciniamo all'8 marzo che è la festa della donna e io forse un po' così ingenuamente mi illudo sempre che sia una data simbolica che aiuti a fare veramente qualcosa contro i femminicidi, che sono un problema anche in Messico. Il titolo di questo articolo che trovate tradotto su Internazionale di questa settimana è Il Messico non fa abbastanza contro i femminicidi. Le dichiarazioni del presidente messicano dopo l'ennesimo episodio di violenza brutale contro una donna rivelano che López Obrador, appunto Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, non ha una strategia per il problema. E ripeto, forse non ce l'ha lui, ma sicuramente non c'è nemmeno in Italia, perché benché si sia varata la molto attesa legge sul cosiddetto codice rosso, poi sapete che mancano spesso le risorse e le persone per mettere in atto quelle misure previste dal codice rosso. Ma passiamo a un altro argomento, perché si è parlato, si continuerà a parlare, credo sempre, da qui diventerà quasi la normalità, e se ne è parlato anche durante la settimana della moda, che è ancora in corso a Milano, di sostenibilità, di svolta verde, di qualsiasi comportamento che ci riguardi come consumatori, come aziende, come istituzioni, come paesi. E Financial Times ha dato notizia di questo finanziamento che il fondo, la divisione Ventures, quindi investimenti, della società Breakthrough Energy che è stata fondata nella Silicon Valley, però ha ricevuto 20 milioni di dollari da Bill Gates che per investire in questa Lilac Solutions, che è una startup sempre della Silicon Valley, che sta lavorando a trovare un modo più efficiente per estrarre il litio necessario per le batterie. E quindi qui ci leghiamo alla svolta e alla necessità che abbiamo di queste batterie anche per la futura diffusione di veicoli elettrici. Ho scoperto che forse molti di voi lo sapranno, che i maggiori giacimenti di litio sono nel deserto dell'Atacama in Cile. Da lì proviene circa un terzo del litio globale, c'era scritto nell'articolo di Financial Times, e in questo paese i minatori utilizzano il metodo dell'evaporazione solare che dura circa 18 mesi e utilizza grandi vasche. Pensate che servono circa 70.000 litri d'acqua per produrre una tonnellata di litio. La tecnologia alla quale sta lavorando Lilac Solutions, in cui Bill Gates ha deciso di investire 20 milioni di dollari, permette di estrarre il litio direttamente dai depositi, evitando la necessità di evaporazione solare. E vedremo appunto se questo investimento servirà ad accelerare questa ricerca. Se andate in rete a vedere le foto di queste miniere, giacimenti, vasche di essiccazione del deserto dell'Atacama, la prima cosa naturalmente che viene da pensare è che deturpano un ecosistema che, come tutti gli ecosistemi, sarà molto delicato. Spostiamoci negli Stati Uniti, anzi non spostiamoci negli Stati Uniti, rimaniamo negli Stati Uniti ma spostiamoci sull'altra costa, quindi non in California ma a New York, perché il New York Times ha svelato alcuni dettagli che ancora non sono stati presentati dal diretto interessato, cioè Michael Bloomberg, sulle misure che adotterebbe qualora fosse eletto come presidente, e sappiamo che per ora non è nemmeno sicuro che venga scelto come sfidante l'aspirante di Donald Trump per il Partito Democratico, deve prima vincere le primarie, Michael Bloomberg avrebbe in mente una stretta sul settore finanziario e ci sarebbe quindi una tassazione sulle transazioni finanziarie. In passato aveva detto di essere contrario a questa misura, ma evidentemente ha cambiato idea. Vi faccio un'ultima segnalazione e ci spostiamo da questa parte dell'Atlantico. Vox Europa ha pubblicato un'interessante analisi di quello che sta succedendo in Irlanda, dove tra l'altro sapete il premier si è appena dimesso. L'articolo si intitola L'ora del Sinn Féin deve ancora arrivare. Sapete Sinn Féin, che è stata l'evoluzione politica dell'Ira, ha avuto un risultato incredibile alle ultime elezioni del 13 febbraio, ma non è entrata nel governo e in questo momento quindi deve essere un osservatore esterno e secondo l'autore dell'articolo a breve la situazione non cambierà. Era l'ultima segnalazione per oggi, ma vi consiglio davvero di approfondire questi temi perché in fondo riguardano tutti, anche se sono nati in altri paesi, e vi auguro ancora un buon sabato.